YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a RadioTube, un nuovo appuntamento anche in questo weekend pasquale con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e anche il perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV, social network, insomma tutto di quello di cui si è parlato in rete. Dunque, io praticamente questa settimana non ho visto nulla, come al solito, okay. Però perché ho guardato a ripetizione in un loop tutte le prime tre puntate di House of Cards. Ah, sai, cioè, questa serie è a memoria? Sì, più che a memoria è entrata dentro di me, si è presa le mie mattine, cioè meno male che l'hanno prodotta dopo che ho finito l'università, perché sennò non l'avrei mai finita. Quindi. Non ti saresti laureato e avresti solo guardato House of Cards. Ma tu anche, no? A me piace molto, anzi io ti direi una cosa, visto che abbiamo deciso di fare ormai la puntata del sabato diversa da quella della puntata di domenica. Sì, e io ho una predilezione per la domenica. Ti piace? Anche mi me piace la domenica, perché è carino. Poi mi immagino gli ascoltatori in auto che stanno andando, magari chissà, cioè, passare del tempo libero. Per par condicio anche il sabato, eh? Ci piace. Allora, il sabato è il preaperitivo. Sì. La domenica, la gita. Allora, sì. Ti propongo una cosa. Domani parliamo di House of Cards. Solo di House of Cards. Solo di House of Cards. Perché io so House che tu hai fatto una grande intervista con l'autore, una cosa pazzesca. Domani non perdetelo, 15:30. 15:30, sbagliare 15, l'orario. Non so, alle vabbè, 15 capito, domani Radio Tube. Vediamo se riesco a sbagliare anche i nostri account, sì. Marta Cagnola, di Bellasio, oppure l'hashtag Radio Tube, che vale per il sabato ma anche per la domenica, anche se la domenica è Radio Tube Star, perché dunque, abbiamo delle stele. Allora, questa settimana sono tornati tutti. Tutti sono tornati, sì. Per la serie a volte ritornano. Intanto è tornata Suor Cristina, sì. Poi 45 milioni. Beh, Silvio ma poi se par condicio stiamo attenti, sì, no, poi fare un po' così, un po' parlare un po' dell'uno, cronaca, un po' dell'altro. Non è che possiamo parlare solo di uno o dell'altro, che poi non si può, che c'è la par condicio. Poi per è tornato? È tornato Fiorello. Fiorello. Allora, lo sappiamo che ha avuto un incidente brutto, sì. Però adesso lui sta meglio. Il signore che è rimasto coinvolto nell'incidente con lui sta meglio, allora ha deciso di tornare anche su Twitter e sono molto contenta. Mezzo sorriso, solo come un selfie di mezza faccia. Intanto era tornato con un cuoricino. Prima, subito con un cuoricino retweetatissimo, perché... Ah, solo quello, cioè ha buttato lì il cuoricino. Beh, dai, è una cosa carina. Ha buttato carina. Il cuoricino oltre il social network. Una cosa carina. Poi, insomma, ha ritrovato l'entusiasmo, torna anche in radio alla concorrenza, ma dobbiamo dirlo, fargli un in bocca al lupo, perché torna con la sua edicola Fiore, lo dobbiamo dire, torna su Radio 1, però gli facciamo comunque un in bocca al lupo. Bocca al lupo. E poi è tornato anche con un videino del mattino, anche questo io ve lo farei vedere domani. Tutto domani. Dai, facciamo una suspense. Non fare oggi quello che puoi rinviare a domani. No, quindi invece abbiamo già rinviato parlerei... House of Cards e Fiorello. Ma questo domani. Invece parlerei subito di Suor Cristina. Tanto iniziamo ormai da un po' di tempo con Suor Cristina. Dai, scusa, 45 milioni di visualizzazioni per il suo primo video, sì, della sua prima esibizione. No, dai, non è vero. Cioè, 45 milioni di visualizzazioni quando aveva cantato No One, ma come sai, lei... partecipa ad un talent show che si chiama The Voice of Italy e quindi bisogna passare le varie fasi. Secondo te, guarda, ti faccio una domanda difficilissima, la seconda fase l'ha passata oppure no? Ma secondo me no, perché colpo di scena. L'ha passata, quel rischio. Allora invitarla così. Secondo me, allora finché lì è un po' difficile, però appena esce noi l'accogliamo a braccia aperte. E cosa ha cantato? Senti qua cosa ha cantato Suor Cristina. Beh, ragazzi, girls just want to have fun. Le ragazze vogliono solo divertirsi. Ce l'avevi detto la scorsa settimana. Io che l'avevo, aveva scelto una io avevo già avuto la soffiata. Con un'interpretazione però un po' mistica. Sì, è un inno alla parità di genere, non un manifesto di depravazione. E lei si è ovviamente dimenata sul palco. C'erano le sue consorelle che tifavano. E poi, insomma, comunque un inno al divertimento, sempre avendo in mente la spiritualità. E io ho un dono e ve lo dono, come disse nella prima puntata. C'è stato comunque il colpo colpo di scena, perché quella povera ragazza che la affrontava, cioè è andata al massacro, la povera Luna. Però è stata ripescata, quindi insomma alla fine un po' di colpo di scena c'è stato, perché sfidare Suor Cristina. Poi c'è anche qualcuno che twitta come Sunshine Marco B, la Rai utilizzerà Suor Cristina come Jolly alza ascolti, la propone anche come guest a Don Matteo. Secondo me ci sta. Posso fargli fare lo spot del canone? Però, a proposito di TV, mi ero preparato la domanda, volevo sapere se tu avevi una risposta, ma invece è tornata Yolanda? Yolanda non è tornata, però forse le cose stavano un po' diversamente da come le abbiamo presentate tutti. Cosa è successo? La scorsa settimana abbiamo parlato di Yolanda, questa conduttrice di una televisione locale napoletana, Canale 9, che è stata, si è sentita offesa nella sua professionalità. Durante Goal Show, perché è stata tacciata di non poter essere obiettiva, perché aveva ragioni un legame sentimentale, ma... Il conduttore si è comportato in maniera un po' rude. Però lui adesso dice che le cose sono andate un pochino diversamente. Walter De Maggio così ha fatto partire una nuova puntata di Goal Show. E spesso nei dibattiti televisivi le discussioni diventano animate, eccessivamente animate, in particolare proprio nei talk show sportivi. E quindi può succedere a volte che delle passioni prendano il sopravvento sulle ragioni. Però devo anche dire che questa trasmissione esiste da 5 anni e dopo 5 anni di trasmissione, per una volta, purtroppo, è successo proprio qui. Ovviamente io non mi riconosco in quell'atteggiamento inopportuno che ho tenuto con la collega. Tanto è vero, e devo dire con un pizzico di amarezza, questo i tanti siti e i social non lo hanno riportato e non lo hanno portato, o non lo hanno mostrato. Io immediatamente dopo quel discutibile gesto ho voluto ribadire a Yolanda la mia stima personale, tant'è vero che dopo 90 secondi l'ho richiamata sul palco, come potete vedere. Beh, non lo vediamo perché non abbiamo il tempo, ma insomma prima si diceva che era sempre colpa dei giornalisti, adesso è sempre colpa dei social network. D'altronde però forse bisognava mostrarla tutta, noi dalla Campania era arrivato solo quando lei se n'è andata, poi lui l'ha richiamata. Comunque lei non è tornata in trasmissione. No, non è ancora tornata. Perché dice che le scuse sono arrivate troppo tardi. Sì, vedremo se la telenovela va avanti. Monitoreremo Goal Show, però adesso dobbiamo... Monitoriamo il gossip. Il calcio ancora? Parliamo ancora di calcio? Monitoriamo anche il traffico. YouTube. Beh, Daniele, torniamo insieme dopo il traffico e finalmente dai un po' di gossip. Facciamo un po' di pettegolezzo. Anzi, sabato. Dai un po' di leggerezza. Non diciamo cose né cattive. Qualcuno però se le attira un po'. Cioè, diciamo che questa settimana c'è un personaggio di cui Tra i vari ritorni, ce n'è uno che è tornato in maniera un po' bizzarra e anche diversa, perché io non sapevo, ha cambiato anche nome. Sì, ve lo ricordate Shalpi, Rock'n'Rolling, cioè, 30 anni fa? Chi? Bellissimo, bel ragazzo, capelli neri, gli occhi verdi, bello, è tornato. S-C-I-A-L-P. No. Non si spella più lo spelling, com'è? Shalpi. Con l'H e la Y. Ecco, secondo me ha perso un sacco di pubblico, perché devi googolare diverso. Devi googolare Shalpi, però io... Ma si pronuncia anche Shalpi? A me piace pronunciare, credo di no, però a me piace pronunciare Shalpi, perché è più internazionale. Ma io voglio sapere tutto su Shalpi, perché io l'ho scoperto di questo ritorno tramite il blog di un serio critico cinematografico e televisivo che ha un blog divertentissimo. Lo dico subito, non è proprio per tutti, perché a volte è un po' hot. Sì, a volte vietate dei minori, addirittura. Beh, diciamo, sai come si dice in rete? NSFW, Not Safe for Work. Quindi io non lo aprirei dal computer della scrivania della redazione davanti a tutti, perché magari ci sono delle immagini un po' hot. Si imparano sempre un sacco di cose. Il blog però si chiama spettegules.it e già si capisce che stiamo parlando di cose un po' frizzanti. Lui però è anche un redattore di blog e di Yahoo. Buonasera Federico Buoni. Buonasera. Federico, allora, Shalpi o Shopai? Anche tu sei per la Lexio Shopai, ti piace? Ah, partiamo subito con una domanda forte. Dai, sì, così, senza peli sulla lingua. Io amo Shalpai. Shalpai tutta la vita. Shalpai tutta la vita. Shalpai è tornato con questo video straordinario, il video di Come to Me. Io continuare ad ascoltarla per vedere questo video, già un po' mi piace questa Come to Me. Cioè, hai continuato ad ascoltarla. Ma in loop proprio. Un tormentone. È già lì dell'estate, perché io continuo ad ascoltarla Come to Me. Anzi, io chiederei a Carmelo in regia di farcene già assaggiare un pochettino. Qui si balla. Perché così, sì, sentiamo un po' questo sapore di Shalpi o Shalpai. Insomma, senti che già, no, il groove, il ritmo, ce l'abbiamo, la voce. La voce è Shalpi che ci canta in inglese, questa canta è straordinaria, senti. Bello pezzo. C'è gli anni 80, non si sente? C'è qualcosa. Ma questo pezzo ha una particolarità. Il video che è stato... Avevo intuito che non era la musica la particolarità di questo pezzo. È stato pezzo, molto però... dibattuto in rete. Allora, io provo moltissimo affetto nei confronti di Giovanni Shalpi o Shopai. Però, Federico, io credo che quando tu l'hai postato sul blog, dai, hai fatto un botto di accessi, perché è straordinario questo video. È vero, è stata una calamita. Devo ammettere che nella giornata c'è stato un boom di visite legato proprio a quel post e alle natiche di Shalpai, perché per la prima le volta natiche fare nudo. Allora, dobbiamo dire che non è un full Monty, e non è, no, è solo B-side, però è come vero. Mamma l'ha fatto? Come non l'ha fatto e come non aveva mai fatto negli anni 80, quindi quando era un bel bocconcino, possiamo dire. Invece ora che alla soglia dei 50 anni ha deciso di spogliarsi, entrare in acqua senza costume, da lì dietro, per poi ostentare, come dire, pettorali e addominali dipinti. Ma in che senso dipinti? Diciamo che dalle immagini del video risultano un po' troppo marcati, come la signora Britney Spears aveva fatto a Las Vegas durante il tour, che si era fatta per l'appunto dipingere i tratti degli addominali, che ormai non esistono più nel suo caso. Anche Shalpai, devo dire che... Cioè, dal Photoshop al Photoshalpi? Sì, esatto. Cioè, con un po' di ombretto, quello, sai, quello per farsi lo smokey eye. Cioè, ma spiegatemi bene, lo fai sul tuo corpo o lo fai dopo sull'immagine col computer? No, sul suo corpo, è disegnato, credo. Ah, proprio sul corpo! No, Daniele si sta interessando, perché secondo me quest'estate al no, mare... No, ma io anche se disegno, diciamo, c'è poco da disegnare. Puoi fare tutta una tartaruga disegnare, però lui ha detto che non è... corpo, che non è vero. No, lui si è anche fatto il video... Diamo diritto di replica. Sì, no, infatti. Ma lui ha fatto... smentito, via Twitter e via Instagram, con tanto di video verità davanti allo specchio del bagno. E per tu mostrare... l'hai riportato sul blog. Assolutamente. Gli occhi del pubblico, poi decideranno loro. Diciamo che il video lascia molti dubbi, il video pubblicato di Come to Me. Però se Shalpai nega, diamo quel che dice Shalpai. Sì. Certo. Diamo a Shalpai quel che dice Shalpai. Il secondo tema caldo della settimana, le corna dei calciatori. Cioè adesso come non le corna? Non voglio essere proprio così, non voglio semplificare troppo. Però c'è un noto calciatore che questa settimana ha twittato una foto della sua mano sul volante. Ma tu sai in che squadra gioca? Cioè, sai in che campo ti stai addentrando? Ho un po' paura, però sul volante la mano col gesto, lo faccio vedere alla radio, delle corna. L'ha fatto lui. È indirizzata a chi? E ha detto che gliel'ha detto lei di farlo. E lei è? No. Lei è quella che era sposata con quell'altro. È un triangolo. Però sono ufficialmente separati, non è senti più... Senti l'interista subito. No! Allora, spieghiamo la storia. Cioè, sono famiglie che hanno deciso strade diverse. Racconta un po' cosa è successo. Io? Ecco. L'altro giocatore. Il giocatore della Sampdoria, Maxi Lopez, stiamo parlando di lui, no? Quello biondo che gioca in fantasista, non so bene che... E, all'inizio non ha voluto stringere la mano a Maurizio Icardi, che poi durante la partita ha anche giocato una gran partita e l'Inter ha anche vinto molto facilmente a Marassi. Quindi diciamo che sul campo ha vinto. Sì. Forse sui social network io non direi che vince sempre, perché comunque alcune cose dovrebbero, secondo me, restare fuori dai social network. Non tanto la vita privata del gossip, ma la vita privata degli altri, per esempio dei ragazzi. Eh sì, perché la moglie del primo, che poi gli ha messo le corna pubblicamente, no, gli ha fatto fare il gesto delle corna con la mano. Però c'è da dire, Federico, che loro paradossalmente sono molto bravi a gestire l'immagine sui social network, cioè, sono straordinari nella totale follia, esatto, nella totale follia della storia di questa, anche perché questa banda è un personaggio molto particolare, anche un po' pittoresco, riesce a gestire. Ti ricordi che abbiamo parlato delle foto dell'after sex? Anche loro hanno fatto la foto dell'after sex. Sì, certo, poi adesso lei ha detto che... Federico, ma va particolarmente di moda questa cosa di gestire la propria immagine sui social network, soprattutto con Instagram. Ce ne sono di VIP particolarmente bravi a monetizzare in questo senso? Succede, avviene anche in ambito pop star, quindi se pensi a Rihanna o a Katy Perry, la stessa Lady Gaga, sfruttano l'immagine di Twitter, di Facebook e di Instagram per pubblicizzare qualsiasi cosa. Qui in Italia, a livello nel mondo del calcio, lo fa solo Icardi, neanche Balotelli è mai arrivato a tanto. Ogni tanto, come dire, impazzisce, si accanisce contro qualcuno per poi chiedere scusa oppure far finta di nulla, però neanche lui è Fanny. Fanny che però a un certo punto aveva messo lo status di single su Facebook, era venuto per fuori per poi tornarci insieme, loro poi si alla mollano fine... e si riprendono. La mia sensazione è che alcuni di questi VIP, quando hanno lo smartphone in mano, sono lontani dai loro consiglieri per l'immagine, sì, sì. E quindi fanno dei danni a loro insaputa. Ma la cosa incredibile però è che l'Inter non dice nulla ancora riguardo, non ha mai messo bocca sul fatto questo... che Icardi... Allora, questo è un tema molto interessante, c'era anche un articolo su Corriere della Sera che metteva a confronto come Icardi e come invece un altro giocatore dell'Inter, D'Ambrosio, che è arrivato da poco su Twitter, utilizzano in maniera molto diversa, uno quasi per lanciare la beneficenza e l'altro per la vita privata, Twitter. Però hai ragione, cioè le aziende per le quali queste persone lavorano devono in qualche modo controllare e anche dare delle indicazioni, vale per tanti tipi di lavori, non parliamo per i giornalisti. Troppa libertà in certi casi, soprattutto da chi ti consiglia bene. Non so come cosa ne pensi, Federico. No, sono assolutamente d'accordo. Diciamo anche che Icardi è un poco più di un ventenne, probabilmente, sì, certo. Non si rende conto della situazione, non riesce proprio a gestire il mezzo. Ecco perché avrebbe bisogno magari di un freno da parte della società o di un procuratore, che comunque questi calciatori hanno e che tendenzialmente fanno praticamente tutto per loro, quindi non si capisce perché non si riesca, come dire, mettergli un freno, perché probabilmente si sta esagerando. E difatti Wanda ha annunciato che abbandona Twitter per dedicarsi alla maternità. Beh, devo dire, che è cosa buona e giusta. Non lo so, diciamo. Allora, dedicarsi ai bambini è cosa buona e giusta, però effettivamente non le crediamo molto. È al matrimonio, perché si sposano a giugno, quando ci saranno il mondiale. Ah, vabbè, però allora finisce non so se finisce. Beh, vabbè, insomma, se fossi Maxi Lopez, non so, ecco, andiamo usciamo perché mi sono cacciata in un ginepraio. Vorrei parlare brevemente di altri due personaggi che sono particolarmente sotto gli occhi di tutti, sotto i riflettori questa settimana sui social. Uno, vabbè, è il principe George, il principino George, piccolo, che è stato fotografato in tutte le salse con la mamma e il papà, Kate e William, perché sono andati in vacanza, c'erano le foto di questo bel bimbo. Due, il principe Harry. Però non abbiamo visto il principe Harry sui social questo fine settimana. Però c'è un principe Harry molto particolare che ha scovato Federico nel suo spettegulesso. Io sono impazzita. Vi mostro qualche secondo alla radio di questo trailer. We told 12 American women they could win a royal fairy tale wedding. And they believed us. That's good. Abbiamo detto ad alcune donne americane che avranno la possibilità di vincere un matrimonio da favola e ci hanno creduto. Federico, che reality show hai scovato? Io lo trovo straordinario. È un reality incredibile della Fox, dove delle sciacquette americane sono convinte praticamente di poter rimorchiare il principe Harry, quando in realtà non è il principe Harry, bensì un sosia che assomiglia in maniera straordinaria al principe Harry. Quindi loro lotteranno per conquistare il sosia del principe Harry. Senza saperlo, quindi alla fine è delusione massima. Beh sì, immagino di sì, perché comunque uno si aspetta decisamente altro, anche se come puoi immaginare di andare a un reality per fidanzarti con il principe Harry vero e reale. Però io non vedo l'ora di vederlo. Autori, devo dire, molto ispirati in questo caso, perché è talmente inutile, però affascinante come cosa. Ma queste signorine non hanno un amico che gli dice, guarda che non è lui? Saranno un po' bionde, come si dice. Dentro e fuori, sì, saranno, esatto, bionde. Beyond the Inside, così quelle cose che si imparano sempre un sacco di cose. Ma tu devi seguire spettegules.it. Io l'ho detto, è not safe for work, io non lo aprirei davanti a tutti in redazione, no. Perché ma cioè, ho visto non che c'è anche una sezione tipo politica, Ah, ma certo, sì, sì, Federico sì. Non si fa mancare nulla, se ne parla, se ne parlava molto più prima, adesso devo dire che c'è poco da parlare di politica, purtroppo. Quindi... Vabbè, Federico, allora noi ti abbiamo chiamato questa settimana, ma ti chiameremo ancora perché ci tieni molto al corrente con questi pettegolezzi gustosi della rete, perché in rete viaggia anche questo, viaggiano anche queste stupidaggini. E poi quello di Scialpi è il primo di 4 letto singoli, no? Quindi abbiamo materiale per tutto l'anno, mi raccomando, postali subito. E 4 video, e 4 addominali tra l'altro. Ma è straordinario, straordinario. Federico, grazie per essere stato con grazie noi, alla ciao. Prossima. Buona parte. Pasqua. Radio Tube. Rieccoci insieme per la seconda parte del nostro Radio Tube, caro Daniele, caro Chiocciola di Bellasio, perché sì, visto che siamo sempre davanti a Twitter, se qualcuno vuole twittare anche in questo sabato di Pasqua, noi siamo qua, sempre con i nostri tablet e smartphone in mano, l'hashtag Radio Tube. Parliamo di cose un po' serie, visto che abbiamo parlato di gossip. C'è una cosa che tu mi devi spiegare adesso, Daniele, perché... Ma perché voi, esperti e appassionati di politica, siete altrettanto esperti e appassionati di calcio? Allora, è di esperto proprio, diciamo, molta passione. La passione si sente. La passione si sente, ma vanno di pari passo, Beh, non so, abbiamo avuto un presidente del consiglio che era presidente di una squadra di calcio. Il calcio, mischiano molto queste cose, sport e politica, ma non mica solo in Italia, anche all'estero, negli Stati Uniti. C'è molto questa cosa qua della tifoseria. Poi, forse un sociologo potrebbe dirti perché gli italiani partecipano alla politica con lo stesso atteggiamento un po' tifoso con cui partecipano al calcio. Sì, magari te lo direbbe qualcuno più intelligente e colto di me. Però molto spesso sui social network questi due argomenti si intrecciano, soprattutto tra i giornalisti. Però vorrei ricordarti una cosa molto importante, che siamo in par condicio. Dove vuoi arrivare? Abbiamo avuto un laziale. Abbiamo avuto un direttorissimo laziale e quindi dobbiamo avere un direttorissimo... Romanista, un romanista doc. Stefano Menichini, direttore di Europa, che abbiamo al telefono. Buonasera direttore. Buonasera a voi. Direttore... Par condicio, quindi noi la rispettiamo e siamo molto... Quindi abbiamo avuto un direttore laziale, adesso un direttore romanista. Sì, così però è anche legato a quello che è accaduto, perché su Europa e prima su Twitter, grazie anche a un tweet di Stefano Menichini, si è aperto un dibattito culturale su un gol, perché questa settimana il video forse più visto sui nostri siti di informazione è stato un gol che io so che tu vuoi far vedere, anche se è impossibile. Io voglio mostrare il gol alla radio. Sì, è il gol di Bale del Real Madrid. Io voglio mostrare a tutti l'azione, perché la voglio mostrare. Vediamola proprio come si fa. E la voglio mostrare in spagnolo. Voglio mostrare il gol di Bale alla radio. Come la sacò fino al controllo. Sì, bueno, la sacò entre tra cose. Bale, pedían falta de Bartra. Déjalo. Más Bale que Bartra, sigue Bale con el balón, Bale dentro del área, sigue Bale. ¡Gol! Oh, ma si vede anche alla radio, che gol! Stefano Menichini ha scritto che questo gol è la fine del calcio. No, ma come? Specifichiamo. Io ho dato il via a un dibattito. Lo sapevo. Postando su Twitter un articolo di un collega che sosteneva in effetti questa tesi. Poi dopo ce n'è arrivato un altro che sosteneva il contrario. Europa si è piazzata al crocevia di questo importante dibattito su storia tecnica e tattica del calcio e hanno aderito in molti, in effetti. Secondo me la questione merita una discussione. Il gol è un gol straordinario, però diciamo la dinamica di quest'azione sulle capacità tecniche, la fantasia eccetera eccetera prevale in un rapporto di 90-10 lo scatto da centometrista di Gareth Bale. Questo gol obiettivamente è spettacolare, è straordinario, lascia intravedere, volendo, a chi vuole, un futuro del calcio in cui palla lunga, un centometrista di tipo Usain Bolt scatta e semplicemente perché corre più di chiunque altro la raggiunge e la butta dentro. Alla faccia di schemi, dribbling, superare l'uomo, cross dalla fascia, insomma tutte le cose del calcio che noi ci piacciono, seguiamo e sulle quali dibattiamo. Questo è il punto interrogativo, cioè il calcio può diventare questa roba qui, soprattutto se confrontiamo il calcio cosiddetto moderno con quello di quando io e Daniele siamo cresciuti, insomma anche quello degli anni 70. Beh, no, due sport con diversi, qualche mese, no? Di differenza, eh? No, per no, nel senso che io ho imparato adesso il tiki taka, basta, lo devo già disimparare. È in grandissima crisi, devo sì, già sì, disimparare come, tutto. Come aveva previsto Michele Dalai in un bellissimo libro, e sta è in declino, Vedi, Benichini adesso stava parlando di calcio, palla lunga, correre molto. Però stava parlando di politica in realtà, era un'analisi politica, era perché c'è qualcun altro, questa. No? Palla avanti, molto correre, al di là del dribbling parlamentare. E adesso arriva il momento del sabato di RadioTube in cui comincio a sudare freddo perché ho paura a parlare di politica, perché qua è tutto ragazzi, un campo minato. Allora. Anche perché se devo dare io indicazioni di voto siamo messi male, ma dateli voi a ma me le indicazioni voto? Di voto. Voto, ma che ne so io neanche. Allora, però parliamo un po' dei personaggi che sono stati d'attualità questa settimana in rete. Intanto c'è uno che non lo nominiamo, è stato citatissimo nei social network perché in un manifesto ha scritto Abruzzo con due B. E quindi Abruzzo. È un errore di tipografia, dai. Però i social network non perdonano, quindi tutti quelli con l'hashtag, vabbè, sì, Abruzzo. Così. Poi è tornato l'ex cav. Sta facendo il cavaliere, non è più cav, l'ex cavaliere. E ti stai già qua sbilanciando, vedi. No, ma non mi sbilancio. È tornato. Ha fatto una conferenza stampa pubblica. Così ha risposto alla domanda di un giornalista di La 7. Ma al di là della battuta, le sono piaciute? Ottime. E lei è sempre in forma, Presidente. Senta, però, al di là di questo aspetto... Questo è un po' in contrasto con la linea editoriale della sua rete. Cavoli suoi. Lei è... Ed è sempre invitato. Beh, ecco, devo dire che qua c'è già la par condicio, no? Perché c'è nel video da solo. Mettiamo lui i guai, Stefano. Com'è tornato? Oh, ho paura, direttore. Cioè, è tornato in forma o fuori forma? Giocherà ancora questo finale di stagione interminabile? Nella sua squadra non è cresciuto nessun vivaio. E per altro verso non può nemmeno essere del tutto in campo, quindi è in una situazione un po'... Non può ricorrere a tutte le, come dire, le capacità e i tipi di giochi che conosce. Può giocare quasi soltanto sulla difensiva, a centrocampo. C'è qualcuno che scende in campo per dare una mano a un altro che sta scendendo in campo. Ecco, allora, qui c'è... proprio non puoi dire niente. Non posso dire niente. Però è un personaggio molto televisivo, molto donna, da social network. Molto in vista, sì. Che ha deciso di dare il suo endorsement a un candidato. Che non diciamo che assolutamente. Non però in rete... Ma in rete questo video è stato diffusissimo perché è uno spot elettorale. Vabbè, sentiamolo. Ma ti immagini qualche mese fa se ci avessero detto che io avrei fatto il ministro e tu il sindaco? Non mi fa fare gesti scaramantici. Dai, che lo sanno tutti che vinci tu. Sei più bravo, ma stai rottamando un po'. Rottamazione gentile. Credo che adesso però sia arrivato il momento di andare a mangiare un pezzo di focaccia. Come la chiami tu? Focaccia? Focaccia o schiaccia? E allora che ti devo dire? Shyamalan. La fantasia ormai dei video è Shyamalan è un hashtag, è l'irruzione del linguaggio. Sono nati per essere virali, network. Sono nati già per essere virali. Sì, infatti io su questo veramente sarei curioso di sapere, Stefano, direttore, che cosa ne pensi. Cioè, c'è un'irruzione del linguaggio, della forma del social network nella politica? Cioè, c'è un cambio del modo di comunicare questa volta davvero così profondo? Ma non c'è dubbio. Insomma, intanto sul video da cui partite, nonostante l'abbia fatto una delle agenzie che va per la maggiore, che è Proforma, io sono d'accordo con il commento che ne ha fatto Aldo Grasso, cioè un totale nonsense, una totale assurdità, una cosa senza un dialogo totalmente senza significato. Vabbè, ma comunque detto questo, è chiaro che considerando i social network come il confine più avanzato della modernità, ci sono tanti creativi e tanti politici che pensano che sia furbo, astuto trasferire il format del social network, e quindi nel caso di Twitter il famoso hashtag, nella propria comunicazione, condizionando la comunicazione a questo cioè a questo tipo di format e facendo derivare dal format di dialogo, di condivisione che c'è sui social network, il messaggio politico, comunicativo, che sappiamo essere un messaggio politico in senso pieno. Francamente, in larghissima parte mi sembra una moda anche abbastanza limitata come effetto. Ci siamo già un po' passati, a un certo punto la politica è diventata linguaggio televisivo in maniera talmente esasperata che uno non riusciva più a distinguere l'una cosa dall'altra. Dopodiché quelli bravi sono anche invece capaci a usare questo format, quelli bravi, il più bravo in questo momento che governa il paese e comunica con il paese, più bravo in queste cose qui, e comunica con il paese usando il format di Twitter, i 140 caratteri, l'hashtag, e questo passa, va molto oltre la comunità, tutto sommato limitata, come sapete, di frequentatori dei social network, viene accettato dai media, anche quelli diciamo mainstream, quelli più popolari, e quindi in qualche maniera si espande. Quindi tu prevedi un calo, nel senso, è come è stata la televisione a ispirare la politica per un po', adesso sono i social network, però sono passaggi. Ma cioè, a un certo punto ne arriverà qualcos'altro, questo mi sembra, non so che cosa, perché non lo inventeremo noi, lo inventeranno a Palo Alto, in qualche garage. E per l'informazione invece, quella dei social network, è un momento così di sbornia o qualcosa di più? Beh, insomma, è un discorso interessante che ha diverse facce. Diciamo ne prendo soltanto due, una positiva e una negativa. Quella positiva è la straordinaria possibilità che hanno giornalisti, singoli giornalisti o testate, anche piccole testate, per esempio come Europa, come siamo noi, di farsi media e di poter competere sui social network, non dico alla pari con i big, ma insomma, se sono bravi, se sono credibili, se ci sanno fare, e, diciamo così, in maniera appunto competitiva, e questo usando i mezzi abituali non avresti mai questa possibilità, questa chance. E quindi questa è la parte per l'informazione, la chance, e anche per i singoli giornalisti la chance positiva. La parte negativa è che, come poi spessissimo capita, per facilitarsi il lavoro, molto spesso i giornali, le televisioni usano il flusso di opinioni, di commenti che corrono sui social network come fossero le opinioni degli italiani tout court, senza fare la fatica di andare a verificare effettivamente, magari ci sono ricerche di mercato molto più scientifiche, oppure, come si faceva una volta, mandi in giro per strada un giornalista che raccoglie un po' di commenti cioè c'è un aspetto, diciamo, di semplificazione del lavoro del giornalista che, diciamo, non è particolarmente qualificante del suo lavoro. Grazie direttore, siamo contenti di aver avuto Stefano Menichini, direttore di Europa, @Smenichini per chi lo trova su Twitter. Perché... Sì. Però sì, della sì. Roma non avete mai fatto parlare per niente, cioè io ero qui. Ah, giusto, è vero. Ma non è che a Mimun abbiamo chiesto della Lazio, no, però lui ha parlato. Ero qui per questo, ma non dovevo. No, devo dire che Mimun ha parlato molto bene di Totti, bene di Totti. Quindi vorrei anche vedere. Appunto. Vabbè, insomma, dobbiamo tornare a invitare esatto. Il direttore Menichini e parlare solo di Roma. Dopo Roma Juventus facciamo. Va bene, lo facciamo. Direttore, ti riaspettiamo. Carini. Allora a RadioTube. Ciao. A presto, arrivederci a voi e agli ascoltatori. RadioTube. Ma come vola il tempo quando si vola tantissimo, cioè è iniziata quando 5 minuti ci fa. Si diverte. È iniziata 5 minuti fa, Radio Tube già finisce. Però domani c'è domenica. Certo, c'è la puntata di domenica nella quale parleremo di Fiorello. Nella parleremo di House of Cards con l'inventore di House of Cards, con un'intervista pazzesca di Marta Cagnola a Dobbs. Sai cosa mi ha chiesto Dobbs alla fine dell'intervista? Si può dire alla radio? Mi ha detto, però mi raccomando, fammi doppiare da una voce molto sexy. Ah, bene. Beh, ecco. E tu l'hai fatto doppiare da? L'ho fatto doppiare dal nostro Mario Nutarelli, che insomma ha il suo perché. No, una voce molto sexy. Ma comunque, adesso dobbiamo chiudere con serietà. Dobbiamo parlare di un argomento estremamente di attualità. Il secondo più discusso argomento della settimana dopo House of Cards è... sono i Google Glass. Ma li avrà provati qualcuno questi Google Glass? Certo, sì. E una persona che li ha provati è Luca Salvioli, giornalista del Sole 24 Ore, che abbiamo al telefono, il conduttore io. Ma non ci posso credere, buonasera Luca. Buonasera Marta, buonasera Daniele, eccoci qua. Tutti i social network sono impazziti e raccontano di cosa sono, di cosa si può fare con i Google Glass. In realtà pochissimi li hanno provati. Io sono un po' preoccupata perché portando io ogni tanto gli occhiali non so come... La montatura hipster per... ma hanno fatto un accordo adesso, certo, con un noto notissimo, e quindi potrò avere una montatura hipster per i miei Google Glass. Luca, intanto voglio sapere, sono curiosa di sapere come, dove, quando, perché e che cosa è successo quando li hai provati. Guarda, li ho provati a gennaio al CES di Las Vegas, che è la grande fiera della tecnologia, dove c'erano tantissime persone con i Google Glass, ed è il momento in cui ho realizzato che chi indossa i Google Glass non è per forza cool, mettiamola così. Infatti si scherzava molto su come apparivano un po' impacciati le diverse centinaia di personaggi che indossavano i Google Glass. In effetti non sono bellissimi, grazie al cielo hanno fatto un accordo con Luxottica, quindi speriamo che il Made in Italy in questo li possa aiutare a farli un po' più bellini in termini di design. Ero a uno stand di un produttore di automobili che ha un'applicazione che usa i Google Glass. È stato interessante perché, vabbè, almeno ho visto di cosa si tratta. Mi è venuto un po' di mal di testa, però non li avevo potuti regolare, invece ho scoperto che si dovrebbe fare. A che serve il Google Glass? Allora, sostanzialmente l'idea che mi sono fatto è che ha una serie di funzioni che già conosciamo e possiamo utilizzare con lo smartphone, con la differenza che possiamo evitare di tirarlo fuori in continuazione. Ci sono alcune ricerche che dicono che noi tiriamo fuori dalla tasca il nostro smartphone qualcosa come 200-300 volte al giorno. Invece in questo caso con il Google Glass alcune delle principali funzioni le hai direttamente sulla retina. C'è un piccolo prisma in fondo alla barra destra dell'occhiale che si proietta sulla retina e ti fa apparire le immagini, per esempio, di una mappa. Quando sei in macchina, devi arrivare in un certo posto, puoi dire OK Google, che è il comando che li accende, diciamo così. A questo punto l'occhiale ti ascolta e gli dici portami per favore sui navigli a questo incrocio, a questo locale, e ti appare sulla retina destra, ti appare la mappa, non esattamente dall'occhio, quindi tu vedi la strada, ma in alto a destra, se tu sposti un attimo è la mappa. Oppure puoi dire OK Google, fai una foto, e in questo caso il vantaggio è appunto non tiri fuori lo smartphone, e soprattutto la foto che riesci a fare o il video che riesci a fare ha esattamente la tua prospettiva, cioè tu riesci a fare un filmato di, ad esempio, tuo figlio che sta giocando con te esattamente per come lo stai vedendo. Quindi alcune delle funzioni che noi potevamo prima, diciamo, attivare con lo smartphone vengono attivate in maniera più semplice sugli occhiali, fino ad arrivare addirittura a cose così importanti come è stato fatto, se non ho capito male, questa settimana, un esperimento addirittura con un'operazione chirurgica. Esatto, poi ci sono questi esempi di utilizzo più utile e pratico. L'Humanitas a Milano sta facendo una sperimentazione in sala operatoria che consente al chirurgo di appunto filmare quello che sta vedendo durante l'operazione e trasmetterlo in diretta a una sala, diciamo, di regia dove ci sono altri medici, ad esempio, che devono imparare una metodologia, oppure altri chirurghi in collegamento con altre sedi che possono contribuire al successo dell'intervento in quel momento, perché è un intervento dove l'equipe ha un valore. Perché le riprese che noi facciamo possiamo anche condividere in tempo reale, possiamo fare una chiamata via Skype, che loro chiamano Hangout perché è il loro social network certo, con la tecnologia VoIP, ma è la stessa cosa, e quindi quello che io sto vedendo in quel momento arriva in diretta a un'altra persona dalla parte del mondo che ha esattamente la mia prospettiva. Anche gli chef lo stanno facendo mentre fanno una ricetta sul loro blog o sul loro sito, possono mettere esattamente in diretta quello che stanno facendo. Io sono un po' preoccupata per questa storia della guida, perché io non so se so guidare il pandino con i Google Glass, secondo me vado in confusione. Ma noi, siccome parliamo tanto di video virali, è un po' il nostro pane, c'è un video che mi ha segnalato Daniele che mi ha fatto molto ridere e beh, mi ha anche inquietato però allo stesso tempo, che è il video satirico di un possibile colloquio di lavoro con i Google Glass. È un video francese, sì, e lo guardiamo ma lo un commentiamo perché è tutto in francese. Eccolo qua, facciamolo intanto partire. Bonjour, asseyez-vous. Buongiorno, si sieda, mi presento. E intanto lei, che dobbiamo dirlo è molto carina, è una bella figliola, è una bella diciamo. Ragazza, dice mi chiamo Julie Paty. E allora, mentre lei si presenta, lui, se lo facesse... Diciamo, il suo retropensiero non è proprio centrato sul colloquio dal punto di vista lavorativo. Esatto, nel senso che se lo facesse tirando fuori lo smartphone, l'iPad... Lo becchi. Sì, ecco, invece lui comincia a cercarla su tutti i social network. La prima ricerca che fa è Julie Nuda. Beh, non proprio nuda, al mare tipo, no? No, no, però la ricerca guarda subito se c'è qualcosa in rete. Sì, certo. Certo. Però, siccome Luca prima ha detto puoi fare le foto, sì, come lo so, finisce? Ti sei accesa la lampadina. Come finisce questo video? Sentiamo come finisce. Grazie, arrivederci. Tutta se ne va. Foto. Lei si alza e se ne va di spalle e lui foto. Perché dall'altra parte dei suoi Google Glass ha tutti gli amici che erano collegati e con le bandierine stavano festeggiando, perché lui alla fine l'assume. Certo, l'assume però per meriti professionali. Però diciamo che insomma, e nel frattempo condivideva. Quindi è satirico, però spiega abbastanza quello che si può fare con i Google Glass, perché è molto collegato, come diceva prima Luca, forse ci può dire qualcosa in più, con i social network. Esatto, e oltretutto, visto che molti utilizzi di Google Glass terrorizzano chi hai di fronte, perché, come dire, uno può farti la foto, inviarla, fare ricerca, come esattamente come nell'esempio di cui avete parlato, Google, di fronte a diverse critiche, ha messo online una serie di consigli, diciamo, di come devono essere utilizzati i Google Glass. Ad esempio dicono, non farete una bellissima figura se starete in un angolo da soli tutto il tempo a fissare la vostra lente no, piuttosto che l'ambiente circostante. Se fate foto in giro in un locale, insomma, ditelo prima, chiedete il permesso. Una sorta di galateo, tra il galateo, esatto, e le regole della privacy. Il galateo, esatto, nasce il galateo di Google Glass, alla fine dicono, don't be a glasshole. Beh, non la possiamo tradurre letteralmente perché chi non segue quei consigli rischia di non avere un comportamento accettato socialmente. Meglio seguire il Google Teo. Esatto, perché dopo la netiquette, il Google Teo, mi piace molto. Caro Luca, grazie per essere stato con noi e per averci regalato per interposta personale l'esperienza con i Google Glass. Io già mi informerò per le montature, perché insomma un po' ci tengo. Hai fatto anche le lenti a contatto? Perché... Arriveranno. Signor. Al momento i Google Glass li hanno venduti tra l'altro questa settimana in America un giorno solo a $1,500. Uh-huh. E arriveranno sul mercato a fine 2014, non sappiamo quando in Italia. Grande, comunque, vedi il cronista che viene fuori. Noi ci eravamo dimenticati di queste particolari importanti. No, infatti è vero. Quando arriveranno proveremo a raccontarli in radio mentre li abbiamo davvero. Esatto, non farmi le foto a tradimento mentre mi volto. Ok. Io comincio a mettere i soldini nel maialino per risparmiare per i Google Glass, però abbiamo finito la nostra puntata di oggi. Ciao Luca. Ciao a voi, grazie. A presto a Luca Salvioli e a presto anche agli ascoltatori di Radio 24, ma a domani, perché sì, abbiamo la seconda puntata subito del dopo weekend. Dopo il pranzo di Pasqua? Per digerire, per decompressione. No, alle 15 ci troviamo con la seconda puntata del weekend. Domani parleremo di Fiorello, parleremo di televisione, parleremo di blog, parleremo di tantissimo House di... House of Cards. Esatto, di House of Cards, a domani alle 15 con Radio Tube. Ciao.